Non ci piacciono queste misure perché noi abbiamo chiesto al governo, e speriamo che riveda un attimo la sua impostazione, di sbloccare la questione dei licenziamenti appena è finita la pandemia. La pandemia ancora c'è, purtroppo c'è tuttora. Quindi date precise non vanno decise. Poi si parlava del mese di ottobre, può andare bene anche il mese di ottobre, l'importante però che si sposti il periodo da giugno in avanti, e quindi che non ci troviamo nel bel mezzo dell'estate con in corso ancora oltre la metà della popolazione che deve fare le vaccinazioni, soprattutto per una certa fascia di età che si trova magari a dover anche avere a che fare con eventuali licenziamenti. Quindi questo ci trova perfettamente non in linea con quello che il governo hanno deciso, ma non siamo neanche in linea con quello che Confindustria, soprattutto Confindustria dell'Emilia Romagna, in un documento che ha sottoscritto assieme alle altre Confindustrie del nord e del nord-est, che dice in buona sostanza che ci deve procedere con lo sblocco dei licenziamenti. Se Confindustria dell'Emilia Romagna firma col sindacato e con le istituzioni un patto, che è il patto per il lavoro, dove si impegna a mantenere gli stessi livelli occupazionali, non capiamo il perché debba sottoscrivere con le altre consorelle a livello di altre regioni lo sblocco dei licenziamenti. Lo sblocco dei licenziamenti, per quel che riguarda la nostra realtà, soprattutto la nostra realtà di Bologna, vorrebbe dire oltre ai 4.000 posti di lavoro che abbiamo perso nel 2019, perderne altrettanti appena si sbloccano i licenziamenti, quindi una bolla sociale che difficilmente riusciremo a contenere. Certo, ecco, c'è anche la questione del decreto semplificazione con sostanzialmente una sospensione del codice appalti. Che conseguenze potrebbe produrre? Sono conseguenze gravissime, gravissime, perché abbiamo lavorato tanto anche in questa regione per quel che riguarda la questione del codice degli appalti e per quel che riguarda, diciamo, fare in modo che gli appalti vengano aggiudicati non al massimo del ribasso, ma soprattutto vengono aggiudicati e se li aggiudicano imprese che siano imprese, comunque siano imprese sane, imprese che da questo punto di vista non siano in odore di malavita organizzata. Se sblocchiamo tutto e creiamo una condizione dove ognuno è libero di aggiudicarsi l'appalto indipendentemente da com'è la situazione della propria impresa, noi rischiamo veramente di aver vanificato un lavoro che è durato anni, ma soprattutto anche qui, ripeto, in Regione Emilia Romagna stiamo discutendo in questi giorni del sistema di semplificazione, ma mai abbiamo pensato di mettere in discussione, anzi vogliamo rafforzare ancora di più anche in questa regione la questione degli appalti, soprattutto blindare di più questa situazione in un momento di crisi dove i tentativi da parte di infiltrazioni delle aziende in odor di malavita organizzata ci possono essere. Certo, ecco, qualora il governo non vi ascolti, cosa farete? Beh, comunque la piazza è sempre pronta, quindi noi già iniziamo la prossima settimana, il 4, venerdì 4 giugno, ad una iniziativa davanti alla prefettura, dove inizialmente siamo partiti con la questione delle morti sul lavoro, perché anche quello è un problema che c'è, ma io credo che a questo dobbiamo aggiungere questi due elementi, un elemento che è quello del blocco dei licenziamenti e l'altro è quello degli appalti. Naturalmente non è uno sciopero, è una manifestazione che faremo di protesta per far sentire la nostra voce, per dimostrare che comunque siamo determinati, però ripeto, la piazza è pronta, quindi chi vuol riscaldare le piazze e chi vuol creare uno scontro sociale nel paese si assuma tutte le responsabilità. Se vogliono questo, noi siamo pronti a manifestare tutto il nostro dissenso rispetto a decisioni che non ci trovano assolutamente d'accordo, ma non è una posizione di principio, è semplicemente un fatto che al momento della ripresa lavorativa, che ci auguriamo avvenga il più presto possibile, i lavoratori non devono essere espulsi dal processo produttivo, ma devono rimanere all'interno del processo produttivo, e quindi queste professionalità servono all'industria e servono al mondo del lavoro, altro che cacciarli fuori dal mondo produttivo. È una politica cieca che non premia e non premierebbe nessuno, se non qualche industriale che in questo momento pensa come poter liberarsi di qualche lavoratore, ma questo non funziona e non deve funzionare questo sistema.